Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Allora approfittiamo, Drago, che oggi non c'è il bambino Alberto e parliamo delle ricette a base di finocchi cotti, perché abbiamo chiesto, no, che ci mandassero delle ricette. Sì, però niente, cioè è arrivato pochissimo materiale. E segno che il finocchio cotto in sé è proprio una cosa che non si presta a grandi fantasie culinarie. Un'ascoltatrice ci ha mandato la ricetta dei finocchi gratinati, che sono cotti in maniera insomma particolare. Non l'ha mandata scritta, ce l'ha mandata in voce. Ciao a tutti, oggi prepariamo i finocchi gratinati. Bene. Con il bimbi. Allora, con i bimbi. Andiamo a versare l'acqua. Ma come? Fino a ricoprire tutte le lame del bimbi. Ma come le lame del bimbi? Ma cos'è? Abbiamo tagliato due finocchi tagliati sottili e li mettiamo nel varoma. Che lingua parla? Nel varoma, ma cosa dici? Andiamo a chiudere. Vedi, sarà un elettrodomestico. Sì, aspetta. Lasciando libero questo buco, mettiamo. Ma dove li mette? Ma cosa dice? I finocchi tagliati sottili, importante. Chiudiamo con il suo coperchio. Ma questo è il varoma. Andiamo a fare. E andiamo a mettere. Tiri dove? A varoma. A varoma. Ma cosa dice? Ma per 20 minuti, velocità 1. Ma signora, allora, ma non si capisce niente. A varoma. Ecco, è questo il codice d'accesso. 20 minuti. Varoma. Velocità 1. A dopo. A dopo, dice a dopo, ma non torna più. Tra l'altro non si capiva niente. Il bimbi, il varoma o la varoma. Non ci sono altre ricette possibili, ma sono così pigri. Forza, mandateci ste ricette dei finocchi cotti. Qui c'è solo Daniela che per mail dice che i finocchi cotti sono il cibo adatto ai malati terminali, a cui non resta molto da vivere, questa specifica importante. Okay. Quindi allegria qua. Vabbè, vi diamo ancora una possibilità. Allora, scrivete le ricette più appetitose che vi vengono in mente che abbiano il finocchio cotto come ingrediente principale e mandatele per favore a chiedoasilo@radio24.it. Senza bimbi e senza varoma. Nell'aria si insinua un profumino, mi stuzzica il naso, ma cos'è? Sa un po' di letame, mi viene una fame immensa, aspetta, non me. Eccomi in fila ad aspettare, si fanno scommesse sul menù, chi dice fagioli, chi dice banane, ciliegie, biscotti, coniglio di cane, ma il cuoco in vacanza, c'è una sola pietanza. Finocchi cotti, finocchi cotti, finocchi cotti per me. Per me, per te e per tutti voi, perché i finocchi cotti sono un fatto collettivo. Chiedo asilo! Senti, aria viziata. Finocchi cotti. Ma no, ma quali finocchi cotti? Magari. Questa è l'aria viziata tipica delle aule scolastiche. Ti ricordi quelle belle cappe d'aria viziata che riuscivamo a sviluppare alle medie? Cos'è cappe? Cos'è amico? No, ma no, non amico, era una cappa. Comunque non ho nostalgia di quegli odori, Drago. Vabbè, però ora, grazie al bambino ministro Ferruccio Fazio e alle sue linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor, l'aria viziata verrà sconfitta. Perché non basta aprire le finestre. Ci vogliono le linee di guida di indirizzo per la prevenzione, cos'è il rischio indoor? Rischio indoor. Le linee guida sono utilissime perché spiegano per filo e per segno ai presidi e ai bidelli come evitare che le aule diventino dei luoghi malsani. Ogni bambino trascorre circa 6 ore al giorno in un'aula per 10 anni della sua vita. Le allergie e i problemi ai bronchi, che abbondano sempre di più, derivano spesso dalle condizioni igieniche delle aule, quindi aprite bene le orecchie. Bisogna favorire sempre la ventilazione e il ricambio dell'aria, perché se c'è condensa sui vetri delle finestre significa che non circola l'aria, e qua guarda che roba. Alle medie mi ricordo che c'era sempre uno che si rinfrescava poggiando proprio la guancia sul vetro pieno di condensa. Quello è il modo migliore per prendersi qualche schifezza. Ero io. Non sospettavo. Però bisogna asportare quotidianamente la polvere dalle superfici con panni umidi e aspirapolveri. Queste sono sempre linee guida. Certo, queste, effettuare una pulizia più accurata durante la stagione pollinica. Sottoporre a periodiche sanificazioni anche gli strumenti di gioco dei bambini, come le sabbionaie. Cos'è? O sabbiere. Gatti. No, quelle dei gatti, la sabbionaia dei bambini. Dei gatti. No, quella dove vanno a giocare i bambini, la fossa piena di sabbia, quella che c'è fuori, bisogna sanificarla. Tu hai mai visto qualcuno che la sanificava? No, ho solo visto Tito che ci faceva la cacca. Ecco, sì. Ma sì, Tito, adesso andiamo, dai, vabbè, su, dai, Tito, va, bravo. Allora, poi, continuo con le linee guida. Nelle aule vanno evitati carta d'apparati, sì, tappeti, moquette, tende, accumuli, certo, di libri e giornali, e si consiglia di appendere i cappotti all'esterno delle aule. Certo. Vanno plastificati i poster, i fogli di lavoro da esporre alle pareti, per facilitarne la pulizia coi panni umidi. Insomma, Gino il bidello ora dovrà smetterla con le sue serenate alla maestra Poppone e darsi da fare. Sì, sì. Anzi, anche tu, Kappa, che sei bravo nel lavoro manuale, se vuoi dare una mano a pulire, guarda. Sì, qui, sì, guarda, magari un giorno sì. Sì, però adesso non ne ho voglia. Tito, cosa vuole? Vuole andare nella sabbionaia, ma sabbiera lì, ma come, la sabbietta. Ma come, Tito? Dai, nella... andiamo, Tito, su. Ma nella sabbionaia, Tito? E le linee guida del ministro? Vabbè, mica dicono che i cani non possono cagare nella sabbionaia, non c'è mica scritto. No, aspetta, sembra che non dicano niente su questa ipotesi. Tranquillo, è tutto regolare. Dai, Tito, su, andiamo. Allora bisogna sbrigarsi perché c'è tempo solo fino al 12 febbraio prossimo per iscrivere i bambini alle varie scuole, siano esse elementari, medie o superiori. Una volta le superiori si decideva all'ultimo momento, mi ricordo andavo a luglio. Adesso fin da febbraio devi avere le idee chiare. Non so niente perché io ho fatto la scuola svizzera. Ah già, vabbè, hai fatto la scuola svizzera e quindi? E quindi non ho una storia banale come la tua, Drago. Tu che liceo hai fatto tu? Il liceo linguistico. Tu? Io ho fatto il liceo linguistico scientifico classico. Eh? Un liceo svizzero, insomma. Ma tutto insieme. Era complicato, vedi, non è semplice come la tua, è complicato. Per esempio, noi non prendevamo 10, prendevamo 6. 6. 6 era il massimo. E il minimo? Il minimo era 1. 1. Da 1 a 6. 1, 1 a 2, 2, 2 a 3, 3, 3 a 4. E quando è, diciamo, 4 sufficienza? Ah, 4. Tu 4, avevi 4, la media 5. Del 4? Io avevo la media del 5, diciamo, dell'8. Vabbè, liceo scientifico classico linguistico. Invece in Italia va molto di moda in questo periodo il liceo scientifico, quello senza il latino. Sai che una volta lo scientifico aveva 5 anni di latino, adesso invece esiste una versione light del liceo scientifico senza latino, con più ore dedicate alle tecnologie. Ecco, noi il latino lo facevamo, la scuola svizzera, non facevamo il greco, ma latino, facevamo il latino, sì. Quanti anni? 5 anni. Maturità biologica, uno pensa, maturità biologica vuol dire quando sei, che ne so, maturo dal punto di vista biologico, magari puoi riprodurti. Esatto, no? Come Tito adesso da poco è diventato. Da poco. No, invece maturità biologica vuol dire anche quando sei diplomato al liceo biologico. Che mi hanno detto esiste il liceo biologico. Beh, certo, certo. Il liceo biologico. C'è anche quello musicale, ci sono un sacco di licei. Ma non è vero. Come queste sono notizie che io credevo, io le davo per scontate, poi però leggendo un giornale recentemente, La Stampa, c'era uno specchietto con tutte le varie scuole che uno può scegliere adesso, no? L'orientamento. E le scuole sono le stesse di 30 anni fa. Cioè, liceo classico, liceo scientifico, liceo linguistico, liceo artistico, l'istituto professionale per il commercio, che sarebbe ragioneria, l'istituto alberghiero e l'istituto per geometri. E allora? Appunto, tutti questi licei biologici, licei musicali, dove sono? Che giorno? La Stampa? La stampa di quest'anno? Beh, di quest'anno non ho guardato. Ma come? Ma dove l'hai trovata, Drago? In casa mia. In casa tua dove? Era sul termosifone sotto un gatto. Ma come sotto un gatto? Sì, il giornale serviva per evitare al gatto di ustionarsi col termosifone. Ma magari è lì dal 1990, Drago. Può anche darsi, controllerò. In effetti non sembrava nuovissimo. E com'era sto giornale? No, era tutto ingiallito. Se provavi a sfogliarlo si spezzavano le pagine. Giornali ingialliti! E mandate i vostri nananananana alternativi a chiedoasilo@radio24.it. Scusa, ma il gatto sul termosifone, da quant'è che è lì?